possiamo essere ben felici delle persone che sono venute qua, che hanno accettato di discutere queste riviste, della proposta che è venuta da Memoria e Ricerca di discutere insieme appunto queste riviste, che noi abbiamo accolto molto volentieri, e del fatto che a mio avviso il confronto anche tra le due riviste stimola delle riflessioni che spero appunto poi coinvolgeranno anche il pubblico di competenti e di contributori poi anche in alcuni casi delle stesse riviste. Vorrei solo ringraziare naturalmente la Fondazione Basso che ci ospita e vorrei anche precisare che Giuliana Gemelli non c'è per motivi familiari, cosa di cui mi dispiace molto, perché sicuramente avrebbe dato un contributo importante, visto che è la persona, la studiosa che meglio ha messo a fuoco alcuni dei temi che poi circolano in questi due numeri, e cioè il tema della fertilizzazione, diciamo, che deriva dall'esilio, il tema degli scambi, di quanto appunto questi incroci culturali poi abbiano dato luogo alla cultura del Novecento, e soprattutto in particolare con uno sguardo specifico al tema delle fondazioni. Giuliana Gemelli del resto così è da tempo insomma amica della fondazione, ricordo uno dei primi seminari condotti qua su temi interdisciplinari che era scienza e narrazione, un bel tema degli anni Ottanta, e quindi a maggior ragione insomma mi dispiace che non ci sia. Approfittando però del fatto che non c'è, se non vi dispiace, io mi sono presa alcuni appunti e quindi mi prendo insomma un quarto d'ora di tempo, 10 minuti, un quarto d'ora di tempo per mettere a fuoco alcune riflessioni. Poi come vedete ho Marina Bera, Anna Foa qui a fianco a me, e vorrei poi coinvolgere Renato Camurri, che è qua in rappresentanza appunto della rivista di Memoria e Ricerca. Questo, avendo stabilito il programma, diciamo, entriamo nel merito di queste riflessioni. Dunque, gli appunti, così provo a dirli o forse anche a leggerli, perché come al solito è sempre un problema di tempi e forse a volte quando si legge si risparmia tempo. In ogni caso, preciso subito, diciamo, come sapete, Memoria e Ricerca presenta una sezione di questo numero dal titolo L'Europa in esilio, la migrazione degli intellettuali verso le Americhe tra le due guerre. Parole chiave invece ha come parola esilio, e quindi l'asse è certamente diverso. Però, insomma, vediamo in qualche modo come si incrocia. Farei una considerazione, essendomi io stessa occupata di alcuni di temi, diciamo, dell'emigrazione dall'Europa negli Stati Uniti, è chiaro che ho letto con particolare interesse questi studi più aggiornati che sono stati pubblicati e curati da Renato Camurri. Preciso che Renato Camurri è poi l'autore di uno dei saggi sulla emigrazione dall'Italia negli Stati Uniti, e che questo è diventato il suo campo di specializzazione, tanto che di recente ha pubblicato anche gli scritti di Franco Modigliani con una appunto ampia introduzione. Questo appunto per precisare meglio. Per il resto questo fascicolo vede prevalentemente insomma, no, l'attenzione sull'emigrazione dalla Germania, dall'Austria negli Stati Uniti, ma anche l'emigrazione francese e appunto poi quella italiana. Comunque di questo poi parlerà meglio Renato. Farei però un'osservazione, diciamo, come nel corso degli anni questa tematica dell'emigrazione dall'Europa agli Stati Uniti abbia cambiato di segno, nel senso che diciamo, è diventata sempre di più negli ultimi tempi una sorta proprio di disciplina scientifica, diciamo, di ramo disciplinare, insomma l'exilforschung significa poi una sventagliata di banche dati, insomma, no? Che ci vengono giù appena mettiamo questa parola chiave, no? E diciamo dall'area della memoria, del racconto, si è passati oggi, come si vede in questi articoli, a una ricerca anche di tipo prosopografico, relazionale, con strumenti anche metodologici molto raffinati che vengono dalle scienze sociali, prevalentemente poi da Bourdieu, insomma, no? L'esilio è qui, diciamo, il campo però delineato è quello, quindi, e qui l'ho preciso, dell'esilio dall'Europa dei totalitarismi verso le Americhe e soprattutto gli Stati Uniti. L'esilio è quindi una scelta forzata, emigrazione, fuga, da un regime nemico che ha occupato il proprio paese e in quanto tale, come ha scritto anni fa Enzo Collotti, è anche una forma di resistenza, no? L'ha definita appunto l'esilio come resistenza, che mi sembra un termine da tenere presente. Parole chiave invece mette a fuoco la parola esilio e in questo modo moltiplica e allarga il campo di osservazione sia nel tempo che nello spazio. Direi quasi, usando così due termini anche abusati ma che forse ci possono aiutare, che questo comporta nel caso appunto di parole chiave un passaggio dal termine, diciamo così, Erfahrung, cioè dall'esperienza come memoria anche trasmissibile, al termine Erlebnis, e cioè esperienza come vita vissuta, e quindi anche come con i suoi aspetti anche frammentari, diciamo, di memoria frammentari. E questo comporta un intrecciarsi di campi disciplinari. Questa è, diciamo, la specificità poi della rivista e in particolare di questo fascicolo. Allora, diciamo, focalizzandomi in questo momento sul primo tema, farei queste osservazioni. Sono molto molto schematiche e mi servo quasi anche qui di uno, tra l'altro, dei saggi di Carla Pasquinelli, che parla di tempi dell'esilio, quindi usando, diciamo, e vedendo questa categoria. Dunque, gli studi storici sul periodo fra le due guerre rivelano un forte interesse per la società da cui gli immigrati partono. L'esilio, in questo caso, contribuisce a strutturare il tempo e il luogo da cui ci si allontana, in un certo senso, anzi, spostando la periodizzazione storica. Al centro della motivazione e degli studi compiuti, soprattutto nella prima fase, anche in Italia, insomma, negli anni 70, se noi ci badiamo, non vi è tanto il nazismo, quanto la sconfitta e il fallimento della Repubblica di Weimar, non tanto l'ascesa del fascismo, ma la debolezza del socialismo italiano e la guerra civile, diciamo, del primo dopoguerra, non tanto l'Anschluss, ma la sconfitta della Vienna Rossa, ci ricordiamo una famosa mostra, insomma, no? Sempre di quegli anni, non tanto Vichy, ma la debolezza del fronte popolare. Ecco, questi intellettuali che emigrano sono già degli outsider, come li definisce Peter Gay, insomma, no, negli studi su Weimar, di outsider as insider. E con l'allontanarsi dal momento in cui Erfahrung e Erlebnis coincidevano, questo tema invece va scomparendo dalle ricerche dell'esilio. Io che ancora insegno mi rendo conto che, come dire, la Repubblica di Weimar non c'è, proprio non esiste, Leon Blum non si sa chi è, ecco, insomma, sono scomparsi proprio anche dai manuali, diciamo, dai manuali più così anche universitari, insomma, no? Questo mi colpisce molto perché c'è una sorta di appiattimento, insomma, no? È come se tutto cominciasse nel secondo dopoguerra con una democrazia che nasce grazie agli Stati Uniti, insomma, no? Non ci fosse tradizione precedente. Ecco, una seconda considerazione, ecco, io credo che mettere a fuoco l'esilio e questo tipo di emigrati ci aiuti appunto a periodizzare meglio la nostra storia e le ascendenze nostre, insomma. Una seconda considerazione ci porta a evidenziare in questo esilio il ruolo degli intellettuali, degli artisti, degli scrittori. Traverso ha parlato di segnalatori di incendi. Questi intellettuali segnalano appunto la sconfitta, non di un'utopia solo sognata, ma di un'esperienza vissuta. Emigrano da una democrazia vera verso un'altra democrazia, ossessionati dall'interrogativo su come sia avvenuta la sconfitta e su come la democrazia sia subentrato un regime del tutto nuovo attraverso modalità come violenza, terrore, del tutto inattese. Qui c'è il famoso saggio di Freud del 1915, cioè sulla violenza che del tutto inattesa, che si scatena appunto rispetto a un mondo che si credeva ormai civilizzato, insomma, no? Sono ancora questi intellettuali che in America avviano gli studi sulla difficoltà della democrazia e sui pericoli insiti in un'opinione pubblica che appare manovrabile e permeabile da parte dei poteri mediatici. Nello stesso tempo, nella riflessione sugli obiettivi politici, l'attenzione si sposta sul tema della libertà rispetto al tema della rivoluzione che aveva dominato il primo dopoguerra. In questo caso, quindi, qui insomma, mi sembra interessante questo discorso perché è da questi studi che arriva in America, diciamo, no, la sensazione del pericolo che si può anche trasmettere, ecco, dall'Europa anche agli Stati Uniti, dei rischi che ha la democrazia, a cui la democrazia è soggetta. Quindi, sempre tornando al tempo dell'esilio, in questo esilio c'è anche un futuro, a differenza di quello che riflette insomma Pasquinelli a proposito della spesso assenza del futuro nell'esilio, perché questo si proietta su un tempo futuro in difesa dell'altra Europa, dell'andere Deutschland, insomma dell'altra Germania, dell'altra, ecco, no? Per la quale ci si batterà nella seconda guerra mondiale. Qui diciamo non posso non richiamare naturalmente il saggio di Claudio Pavone, che ha riletto la seconda guerra mondiale alla luce di questo tipo di guerra civile, diciamo, di questo scontro, no, tra appunto l'Europa esistente e l'altra Europa, ecco, e ci si batte per un'altra, ecco, per un futuro che è altro e che per questi è semmai più simile al proprio passato, insomma. Ma in questa proiezione si stabilisce anche un canone di lettura del regime vittorioso in quel momento, che appunto che lentamente contribuisce a definire la categoria di totalitarismo. Mi colpisce perché se ci pensate alla categoria di totalitarismo contribuisce Giovanni Amendola e non Giorgio Amendola, Trotsky, non gli stalinisti, i comunisti ortodossi, Lederer, Neumann, Luigi Sturzo, che insieme scrivono su Social Research dei pericoli del contagio, esaltando il ruolo dell'opinione pubblica. E questo, insomma, è una riflessione che mi veniva di fare. Altra riflessione, sempre legato e di ponte possibile, diciamo, tra memoria e ricerca, il nostro numero di parole chiave, è che questi segnalatori di incendio, soprattutto nel saggio di Traverso, sono soprattutto segnalatori di un incendio che non è solo l'incendio dei libri bruciati davanti al Reichstag, ma è l'incendio della Shoah e dell'Olocausto. E che, come sappiamo, però, viene avvistato dagli studiosi, dagli storici, soltanto durante la Seconda Guerra Mondiale. Si pensi al Behemoth di Neumann, che ha appunto due edizioni. Nella prima del 1942, appunto, Neumann è rimproverato di non avere posto l'accento appunto sul sterminio ebraico, cosa che lui metterà e accentuerà nella seconda edizione. Ma già, così notavo, insomma, no, cercando nella bibliografia, e soprattutto, vabbè, non solo in Hannah Arendt, diciamo, vi è l'attenzione negli anni 30, sotto l'egida degli studi della Società delle Nazioni, al tema degli apolidi e dei milioni di refugees o displaced persons che nell'Europa dell'Ovest e dell'Est, diciamo, pongono la loro attenzione alla Società delle Nazioni. Un'ultima riflessione farei a questo proposito di ponte tra i due numeri, tra l'esperienza dell'esilio Europa USA e la parola chiave esilio, ed è il nesso che esiste tra esilio e diritto. Il termine stesso di esilio fa riferimento al bando, quindi diciamo è un termine di per sé già nutrito di diritto, insomma, no? E questo ci sposta, appunto, sposta il numero di parole chiave all'indietro verso Roma, Bettini, Crifò, e in avanti fino alle considerazioni di Lucia Leni su Esuli, diritto internazionale, di Gatta sui migranti clandestini. È un diritto che nasce dal salto culturale, prima che giuridico, che vede come conseguenza della definizione di genocidio, cioè quell'incendio, diciamo, a cui si faceva riferimento, la nascita della persona umana come portatrice essa stessa di diritti e non più oggetto di protezione semplicemente degli Stati. Insomma, sappiamo questo salto che si verifica nelle Costituzioni europee del secondo dopoguerra, come nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Farei, diciamo, se non vi dispiace, ancora alcune citazioni che aiutano ancora a mettere a fuoco invece così, la difficoltà di affrontare questi termini al di fuori dell'arco storico che abbiamo fin qui considerato, che è appunto l'arco fra le due guerre mondiali in Europa. Naturalmente per fare questo dobbiamo fare riferimento prevalentemente a Said, che è, diciamo, l'autore che meglio ha messo un ponte fra questi due elementi. E Said nei suoi saggi sull'esilio fa un ponte esatto tra rifugiati ed esilio, dicendo: se è vero che ogni persona cui a diverso titolo sia proibito il ritorno a casa da considerarsi esule, occorre tener conto di un certo numero di differenze sostanziali tra esiliati, rifugiati, espatriati ed emigrati. L'esilio origina dall'originaria pratica del bando. Lo stigma dell'outsider lo accompagnerà per sempre. I rifugiati sono invece un prodotto delle politiche statuali del XX secolo. La parola rifugiato, cioè, ha da subito assunto un significato politico, alludendo a masse ingenti di individui innocenti e sradicati, per i quali si rende urgente un intervento di assistenza internazionale, laddove esiliato credo comporti sempre un peculiare carattere di solitudine, accanto a un non so che di spirituale. Allora, proviamo ad andare avanti sulla sottolineatura della differenza connessa appunto alla specificità del XX secolo. La troviamo anche in Brodsky, che sebbene rifugiato a New York come Said, vede la sua condizione non così favorevole anche per l'esiliato, diciamo, no? E scrive nel suo discorso in occasione del suo discorso sulla condizione che chiamiamo esilio, 87, che a lui piaccia o no, è evidente che i gastarbeiter e i profughi di qualsiasi specie e colore fanno impallidire il fiore all'occhiello di uno scrittore in esilio. Le traversie dei profughi durante e dopo l'emigrazione sono un luogo comune del nostro secolo, e qui, diciamo, si sottolinea questo aspetto. E ciò che il nostro scrittore in esilio ha in comune con un gastarbeiter o con un profugo politico è che in un caso come nell'altro un uomo fugge dal peggio verso il meglio. E qui richiamerei al discorso appunto dell'esilio, del totalitarismo tra le due guerre, che dicevamo prima, insomma, no, verso gli Stati Uniti. In tutta la faccenda la verità è che da una tirannia si può essere esiliati solo in una democrazia, a differenza che nell'antica Roma, cita. Ma c'è un aspetto tragicomico per lo scrittore. Grazie alla sua precedente incarnazione, il nostro uomo è in grado di apprezzare i vantaggi sociali e morali della democrazia meglio di coloro che nella democrazia non sono nati. Solo che la democrazia gli assicura l'incolumità fisica, ma gli toglie ogni significato sociale ed egli si trova nell'assoluta incapacità di svolgere una parte significativa nella sua nuova società. E quindi il ruolo dell'intellettuale, quello che per Said consiste nel dire la verità, come sappiamo, ma è anche il ruolo dello scrittore e dell'artista, per il quale il problema della lingua e del suo pubblico è una condizione essenziale e esistenziale. Dunque, in che misura l'esilio è un esilio particolare nel XX secolo rispetto ad altri tempi? Ancora Said. Già in altre epoche gli esuli sono stati associati ad analoghe visioni culturali e transnazionali, e cita Romantic Exiles di H. Carr sugli intellettuali russi e sulla figura di Herzen. Ma la differenza tra gli esuli del passato e quelli del presente è soprattutto, ed è essenziale ribadirlo, un fatto di scala. Il nostro tempo, il suo moderno imperialismo militare, le ambizioni quasi teologiche dei suoi governanti dispotici e totalitari, è il tempo dei rifugiati, dei profughi, dell'immigrazione di massa. E così torniamo alla riflessione sul totalitarismo come religione politica, questa riflessione sulle ambizioni teologiche di questi despoti del nostro tempo, e dunque sul nesso tra esilio e eresia che connota questi refugees del Novecento, ma che nello stesso tempo li avvicina ai secoli passati. E su questo abbiamo lavorato nel fascicolo su esilio. Su questa scorta, retrocedendo all'indietro nel tempo, troviamo l'analisi dell'esilio in epoca romantica e risorgimentale, penso al saggio di Bistarelli, che è qui. Un esilio che nasce dal sogno di una nazione, ma che definisce questo spazio in termini eminentemente etici e culturali. Siamo in clima di 150esimo e credo che tutti abbiamo presente le discussioni in corso e soprattutto il lavoro di Banti a questo proposito. Come ha dimostrato Banti e come dimostra anche Francesca Sofia, il canone risorgimentale è un discorso che costruisce la nazione come religione civile, di cui i nuovi sacerdoti sono gli scrittori, i letterati. Questi costruiscono il potere simbolico delle nuove forme letterarie nei confronti del canone tradizionale come un'eresia. Eresia, profezia, rivelazione, il termine sacerdote usato per gli intellettuali, la presenza della Bibbia come libro dei libri. La Bibbia ci riporta alla diaspora ebraica, al saggio di Levi della Torre in parole chiave, al saggio di John Tedeschi sull'esilio intellettuale degli intellettuali in fuga dall'Inquisizione romana, con un'ultima connessione tra i due fascicoli, quella che riguarda la creazione di una cosmopoli, quale massima aspirazione dei nostri esuli. Termini religiosi, retaggio ebraico, ideal tipi che rimandano a Weber e alla sua ricerca sulla eccezionalità europea, che come sapete è una ricerca prevalentemente basata sulla eccezionalità religiosa europea, sulla tradizione giudaico-cristiana. Un'Europa cosmopolita, ma pur fortemente segnata dal suo specifico retaggio religioso. Su questo vale ancora una riflessione di Josh Steiner, citata da Said, e chiudo. La cultura dell'Occidente moderno è in larga parte il prodotto di esuli, emigrati, rifugiati. Negli Stati Uniti, per esempio, il pensiero accademico, intellettuale e estetico è quello che è in primo luogo grazie a chi è fuggito dai fascismi, dal comunismo o da altri regimi. Ciò ha indotto George Steiner ad avanzare la tesi più che fondata per cui un intero genere della letteratura occidentale del XX secolo dovrebbe considerarsi extraterritoriale, una letteratura da e sull'esilio che ipostatizza questo tempo come il tempo dei rifugiati. Toccando il tema dell'extraterritorialità, penso che ci sia da riflettere di nuovo sull'esilio in un mondo globalizzato. E qui lascio la parola alle nostre amiche. Grazie. Allora, direi procediamo in ordine. Va bene. Allora, io intanto premetto che essendo... Si sente? Sì. Essendo di formazione e di professione una letterata, non mi addentrerò più del necessario negli ambiti numerosissimi che entrambi i fascicoli presentano, perché anzi devo dire che ho colto lo spunto da questa offerta, da questa proposta di presentazione proprio come un'ulteriore sfida ad altre sollecitazioni, insomma, che naturalmente, vista la ricchezza di entrambi i due numeri monografici, mi ha sollecitato a pensare e a riflettere. È ovvio, come diceva prima Mariuccia Salvati, che il consolidamento di un nutrito e relativamente recente ambito di ricerca, quello dei, appunto degli exil studies o exil fortune, cresciuti soprattutto tra Germania e mondo anglosassone, non sono l'unico tema di questa di questo incontro e non sono l'unico tema che mi ha spinto a riflettere. Anzi, quello che mi è poi rimasta come sollecitazione principale è una riflessione sull'esilio come mito, essendo io una letterata lo vedo più da questa prospettiva, cioè come un grande mito, peraltro si ricordava anche Said, si ricordava George Steiner, ma appunto la dimensione sulla quale mi sono trovata più spinta a riflettere è quello dell'esilio come grande mito della nostra cultura europea, della nostra cultura occidentale. Un mito naturalmente, come tutti i miti, ambivalente e quindi carico di forti valenze sia positive sia negative. Mi sembra che nei testi, nella gran parte dei saggi che sono stati qui raccolti, forse si tenda più a sottolineare la dimensione critica che può sprigionarsi da questo mito, no? Il mito dell'esilio come mito dello spossessamento, dello spaesamento, della distanza da sé, della perdita, della vertigine, della perdita di identità. E io invece mi sono così anche soffermata sull'altro corno del mito, l'aspetto più positivizzante e più caratterizzante, secondo me, la nostra cultura, la nostra civiltà, il che non significa che questo non ci debba porre delle domande, costringerci ad interrogarci proprio sul presente, perché anche questo mito, come tutti i miti, ha una storia e credo che siamo sull'orlo del XXI secolo, ormai arrivati a un momento di svolta anche rispetto a questo. L'esilio dunque non solo come fatto ricorrente della storia e delle biografie degli europei, perché se noi prendiamo così, facciamo una carrellata sulle biografie dei grandi europei, beh, insomma è difficile trovare uno di essi che non abbia avuto l'esilio come parte importante o costitutiva o come pericolo o come rischio o come conclusione della propria esistenza. Quindi l'esilio come grande narrazione della civiltà europea, grande tema simbolico e grande mito. Mi sono trovata quindi poi spinta ad accomunare anche forse in modo improprio narrazioni diverse, narrazioni che sono appunto letterarie e mitiche, dall'esilio di Ulisse a quello di Enea, all'esilio di Israele in Egitto, all'esilio del capro espiatorio Edipo dalla città di Tebe a Colono. Naturalmente sono tutti temi e miti che sono riccamente rielaborati nei contributi di questo fascicolo, per arrivare al tema cristiano dell'esilio dell'uomo nel peccato originale e della peregrinatio, caratteristica cristiana. Mi sembra che questo tema invece manchi, è una prospettiva che forse solo si tocca parlando degli eretici. Un tema appunto quello dell'esilio cristiano che dagli Atti degli Apostoli in poi entra a far parte del modello cristiano stesso, che è così fondante anche per tante altre formulazioni dell'esilio nella nostra cultura. Quindi l'imitazione di Cristo come viaggio di diffusione della fede, che poi prende la forma collettiva della ricerca nel pellegrinaggio religioso, la ricerca di sé. E poi quella del riscatto dall'esilio terreno, dalla patria celeste, nel mondo della caduta, che è la grande architrave del mito dell'esilio cristiano. Quindi un mito positivo che nelle sue tante varianti è una costante, almeno fino alla grande svolta che secondo me si manifesta nella virata decisamente in termini politici del mito dell'esilio nell'età dei nazionalismi e delle rivoluzioni. È un mito di lunghissima durata, se pensiamo per esempio al ritorno di Lenin in Russia nel 17, è un esule che ritorna, cioè fa parte di questo sistema di valori simbolici. Dopo poi le definizioni, le riflessioni di Hannah Arendt sulla svolta appunto del XX secolo, la trasformazione della condizione di esule in condizione di rifugiato e la riflessione sugli esiti dei totalitarismi, anche questa versione del mito cade, cioè tutto il problema dei rifugiati così riccamente trattato nel fascicolo di Memoria e Ricerca è anche proprio imperniato su questa nuova difficoltà, su questa differenza. Ma torniamo alle mie riflessioni così estemporanee sul mito dell'esilio. Costretto dalla guerra e dalla punizione degli dèi, oppure dalla distruzione della patria o dalla schiavitù, o invece dalla proscrizione, dalla persecuzione della propria fede, l'esule del mito si avvia lungo un percorso che lo riscatterà in tutto o in parte dalla sua condizione di espulsione. E questo è l'elemento positivo. L'esiliato mitico vince del tutto o in parte la condanna divina, sostituisce alla vecchia patria una nuova ancora più grande. Fatto forte di una nuova legge, occupa la patria che gli era stata promessa, diffonde, oppure come accade appunto per gli apostoli, in tutta la terra la parola per amore della quale si era fatto fuggitivo. L'esule è un eroe culturale. Tutte queste grandi narrazioni infatti esprimono valori fortemente, come dicevo, enfatizzanti del punto di vista di una collettività. Se la condizione storica, esistenziale oppure intellettuale dell'esilio è un'esperienza di privazione e di perdita spesso atroci, perdita della terra, della cittadinanza, dei diritti, della lingua, una perdita che è dirompente soprattutto nel caso dei poeti, si parlava prima di Brodsky semplicemente non ha mai imparato a parlare bene l'inglese, chi lo ha sentito negli Stati Uniti lo sa, e questo per un poeta è una delle tragedie più assolute, non potersi esprimere, non poter più usare la propria parola, soprattutto per un poeta russo, se si pensa che cos'è la poesia in Russia, non poter più usare la propria parola come veicolo di comunicazione collettiva, di identificazione di un popolo, come appunto sempre avvenuto in Russia per la sua grande poesia. Quindi privazione di identità in senso lato o in senso specifico, come nel caso di chi lavora con la parola legata a una lingua individuale. Però ecco, una caratteristica fondante del mito è che esso è la premessa del riscatto, un riscatto che può essere politico, può essere teologico o culturale, di una liberazione collettiva e premessa anche per la creazione di una civiltà. Pensiamo al mito di Enea, no? Ecco, l'esule che costruisce con i penati della sua patria perduta la nuova patria universale, Roma. Un mito dunque europeo, una narrazione nella quale il soggetto non solo... Scusate? Enea. Oh, scusate, una svista. Una narrazione in cui il soggetto non solo entra in contatto con il suo destino, ma entrando in contatto con esso fonda anche la storia, non solo la sua individuale, ma quella di un popolo. Nella fase, diciamo, di destrutturazione di questo mito, che si è poi trasformato anche in archetipo del romanzo, come ricorda anche Carla Pasquinelli nel suo saggio, citando in merito Lukács, appunto anche l'eroe del romanzo nel mondo moderno ha una sua connotazione esilica, è in esilio e deve ricostituire una patria che ha perso, una patria ideale, una patria di appartenenza, questa volta individuale, e in genere questa sua ricerca conosce uno scacco, rimane l'eroe spesso esule oppure riesce a riappacificarsi solo parzialmente con la patria originaria. E comunque invece, dicevo, fonda la storia. In un certo senso il legame tra storia e esilio è molto stretto. L'esilio antico può capovolgersi in storia a patto però di convertirsi in ritorno nella patria vera o simbolica, è il caso di Ulisse o il caso di Mosè, oppure in fondazione di una nuova terra reale o spirituale, la polis ateniese dopo la morte di Edipo a Colono, appunto, dicevo, Roma, il cristianesimo degli apostoli, la cristianità degli apostoli, oppure può diventare entrambe le cose. È nel mondo postclassico che si afferma nel mito il paradigma dell'esule di tipo politico, a partire da Boezio e poi con Dante, che accoglie ed esalta da subito in positivo la variante politica appunto di questa narrazione. L'esule, exul in meritus, nel caso di Dante, cioè esule in nome della giustizia, è scacciato appunto dall'iniquità del regime politico. Qui si vede appunto una caratteristica che poi sarà una costante, ma che si presenta in primo piano, che lo perseguita costringendolo a perdere insieme alla sua patria la sua libertà civile. Libertà va cercando che si cara, come sa chi per lei vita ha perduto. E qui Dante mette queste parole in bocca a Catone, appunto un tribuno che si suicidò nella rappresentazione dantesca per non essere proscritto da Cesare, e quindi l'esilio è l'alternativa al suicidio. La libertà è il punto fondante di questo mito politico. Anche in questa versione il mito comprende l'infinito spossessamento identitario, ma anche una sua destinalità esistenziale. Tu perderai ogni cosa diletta più caramente, e questo è quello strale che l'arco dell'essilio pria saetta. Questa è la profezia che l'antenato Cacciaguida fa a Dante nel Paradiso, e Dante si rappresenta come personaggio autobiografico prima dell'esilio. Nella finzione della commedia Dante non sa che sarà un esule, è il suo antenato che glielo preannuncia e descrive tutte le fenomenologie di questa sua vita futura, di questo suo destino, e quindi le diverse miserie del fuoriuscito. Tu proverai come sa di sale lo pane altrui, e come duro cale lo scendere e il salir per l'altro scale, e quel che più ti graverà alle spalle sarà la compagnia malvagia e scempia con la qual tu cadrai in questa valle, e cioè i suoi compagni di esilio, gli altri fuoriusciti di parte bianca con i quali Dante dovrà accordarsi o discordare, come tutti gli esuli si troverà a condividere un destino aspro ed ingrato. Altrove Dante esalta polemicamente l'esilio come valore. L'essilio che mi è dato onor mi tegno, scrive Dante in una canzone, le tre donne intorno al cor mi son venute, che è nota poi come canzone dell'esilio, e che doveva essere al centro di un trattato, un capitolo del Convivio, l'opera teorica dantesca, che aveva come tema la giustizia. Ed è appunto significativo che le tre donne non sono delle creature così, insomma, stilnovistiche, ma in questa canzone estremamente allegorica le tre donne sono le tre forme della giustizia: la giustizia naturale, il diritto naturale, il diritto positivo e la legge. Quindi sono le tre diverse gradazioni della giustizia. È l'esule che appunto tocca questa tematica, come già è stato ricordato, come nel fascicolo poi spesso si ritorna a sottolineare, perché l'esilio è un vulnus al diritto naturale, e questo lo è già appunto nel sistema tomistico a cui Dante dà voce. Nello stesso tempo vediamo come l'esilio diventi una componente fondante dell'autobiografia intellettuale europea, quella storica e quella mitica. Nel caso degli studi sull'autobiografia dei quali mi sono occupata, è un vero autobiografema, cioè sono due gli autobiografemi, l'esilio e la conversione. Sono due elementi che non mancano in nessuna autobiografia, fin dalle origini. Quindi anche questo fa parte della nostra cultura, è un elemento fondante della nostra cultura. E però nel mondo moderno delle nazioni vediamo che il mito dell'esule in un certo senso si semplifica e si radicalizza, A questo punto il paradigma mitico si qualifica soprattutto in quanto l'esule ha perduto la libertà due volte, in patria e fuori, e questa contraddizione si definisce e si fissa con l'emergere dei paradigmi nazionali che si intrecciano con quelli esilici tradizionali. L'esule infatti non è libero in patria a causa dei regimi non nazionali, tra virgolette, che lo opprimano, ma è ancora meno libero nelle nazioni che lo ospitano, appunto perché esse non sono la sua nazione. È però significativo che queste trasformazioni del mito coincida anche con l'età delle grandi emigrazioni europee verso le Americhe, inizio di una forma ancora diversa dell'esilio alla quale l'antico mito stenta a dare una risposta. Il cosmopolitismo, che da sempre era stata una delle varianti possibili iscritta nell'esilio come perdita ma anche come opportunità, nell'età dei nazionalismi diventa più decisamente un'ulteriore condanna. Una condizione avvertita intimamente come negativa, ed è forse a partire dalla negativizzazione storica del cosmopolitismo che secondo me hanno origine, almeno in parte, molte delle difficoltà a raccontare in forme convincenti le nuove trasformazioni, i nuovi espatri, le nuove migrazioni di massa dei tempi più recenti, ancora di più di fronte alla rinascita dei nazionalismi degli ultimi 20 anni. Se ho ancora un po' di tempo volevo aggiungere qualche osservazione. In margine al fascicolo di parole chiave mi sono avvenute altre associazioni, e questa volta a proposito del tema dell'esilio e dell'identità nazionale italiana. Associazioni di nuovo con alcune delle grandi narrazioni letterarie della nostra vicenda risorgimentale, così strettamente intrecciata con il mito dell'esilio anche nei suoi più grandi testi, nei suoi più grandi romanzi. Lo Jacopo Ortis di Ugo Foscolo, che è stato scritto varie volte, tanto per indicare, diciamo, solo 1797-1814, Le confessioni di un italiano di Ippolito Nievo, che è del 1857-58, e per finire con un piccolo anacronismo, perché dovrebbe venire prima, I promessi sposi, che sono 1827-1840. La prima associazione, a proposito di Ortis, un personaggio autobiografico spesso confuso al di là del dovuto con il proprio autore, prototipo appunto dell'esule risorgimentale, inquieto viaggiatore in un'Italia ostile e disunita, dico di Ortis, non di Foscolo, che peraltro ha caratteristiche molto, molto simili, nella quale questa Italia, il tradimento della patria, che è Venezia, si è appena consumato a Campo Formio. Foscolo consacra appunto per almeno due generazioni future il mito stereotipo dell'esule risorgimentale, rappresentandolo come doppio del suicida Ortis. È un personaggio che Ortis incontra alla frontiera con la Francia, in fuga con la famiglia, e che viene rappresentato anche iconograficamente molto spesso in stampe, incisioni, ce n'è persino una nel Museo del Risorgimento qui a Roma. Se è vera l'affermazione di un altro esule, peraltro destinato a rimanere tale, cioè Carlo Cattaneo, che nel 1860 scrive che Ugo Foscolo dette all'Italia una nuova istituzione, l'esilio, e questa è una frase celeberrima riportata anche qui, è vero appunto che Foscolo ha lavorato certamente a dare questa veste simbolica all'identità nazionale, e d'altronde Cattaneo, come già Mazzini prima di lui, aveva riconosciuto nell'esperienza del greco-veneziano Foscolo, più vecchio di più di una generazione, una proiezione appunto mitica della propria esperienza di esule, un'esperienza che però non era più riconoscibile nella nuova realtà italiana unitaria, né poteva riconoscersi in essa, e forse proprio a causa di questo divario, cioè, cominciano poi ad aprirsi le crepe, le fessure che conosciamo nella rappresentazione dell'identità italiana, che cominciano ad aprirsi molto molto presto. Certo, il destino e la personalità di Ugo Foscolo, esule nell'Europa della Restaurazione, come sappiamo morì in Inghilterra nel 1838, non risultano comprensibili storicamente senza tenere conto della sua doppia nazionalità, di greco e di italiano, perché questo era quello che Foscolo era in quanto cittadino del Levante veneziano, nato come era nell'isola ionica di Zante. un dato che lo caratterizza, come ha scritto altrove Carlo Dionisotti, fin dall'inizio come esule fino dalla giovinezza. Questo fu uno dei motivi per cui il poeta riuscì a trasformare il mito dell'esilio in istituzione nazionale, ma non riuscì a sopravvivere ad esso. Cioè, esule come tanti, perché se pensiamo a un altro grande italiano letterato, grande formatore della cultura nazionale, Niccolò Tommaseo, Tommaseo era croato, serbo-croato e italiano. Ha scritto il dizionario della lingua italiana, il dizionario dei sinonimi e dei contrari, però ha scritto anche poesie in serbo-croato, una raccolta Iskra, e naturalmente ha tradotto tutti i canti popolari serbi-croati, lirici, come si dicevano allora. Ma appunto da questa sua natura di esule, poi è andata a Parigi, insomma, ha tratto veramente il mito dell'unità italiana stessa. Nelle Confessioni di un italiano, che si svolgono, il romanzo si svolge tra il 1777 e il 1857, la presenza degli esuli è imponente, anzi costituisce un sottotesto compatto e articolato, un vero e proprio saggio storico sull'esilio risorgimentale e anche sulla rete di solidarietà che si tessono intorno ad esso. D'altronde Nievo era stato per un breve periodo, nel 1848, esule egli stesso e si preparava ad esserlo di nuovo dal 1858 fino alla morte nel 1860. Nel suo romanzo c'è l'intera tipologia dell'esilio ottocentesco, da quella mazziniana del personaggio del medico Lucidio Provedoni, già giacobino, poi carbonaro e convertito alle idee mazziniane, esule a Londra dopo i moti del 1821, che non rivedrà l'Italia, a quella più genericamente carbonara del protagonista, che invece ritorna in patria, dove parteciperà ai moti del 1830-31 e come anziano anche alla Repubblica Veneziana del 1849, ma a quel punto il suo esilio è già finito. Per arrivare poi al figlio del protagonista, che è un garibaldino che appunto va a Roma e poi fugge in Sud America insieme ad altri emigrati comuni, che sono appunto semplicemente persone che cercano una vita migliore, i nuovi esuli europei, e muore da riduzionario di professione appunto in Sud America. Ma non manca neppure un ex ufficiale napoleonico, reduce dalle guerre europee, prima esule e poi giustiziato in Calabria come brigante. Quindi c'è tutta la gamma possibile degli esiti esilici del nostro risorgimento. E infine l'esilio nei Promessi Sposi. Qui assistiamo forse ad un salto di qualità. Quale motivo fra tanti, più di quello dell'esilio, domina infatti la storia dei due emigranti, Renzo e Lucia, costretti alla fuga dalla piccola patria da un convergere di motivi, dei quali la persecuzione da parte di Don Rodrigo è solo forse il più romanzesco e certamente il più appariscente. Ci sono la guerra, la carestia, ma c'è anche il bando posto dalle autorità giudiziarie su Renzo, l'agitatore della sommossa milanese, che spinge appunto questo bando, prima il giovane e poi la coppia, all'emigrazione definitiva in un altro paese. E il celebre addio ai monti della povera operaia tessile Lucia Mondella ripete e traduce in Elegia dell'esilio altre parole. Sono le parole con cui in una lettera del 1775 a un diplomatico russo, il grande proscritto, povero e infermo, come lo definisce altrove Manzoni in un suo scritto, Jean-Jacques Rousseau, esule in Francia, rievoca la sua patria sul lago Ginevra. Sono le stesse parole. Au lac sur les bords duquel j'ai passé les douceurs de mon enfance, charmant paysage où j'ai vu pour la première fois le lever du soleil, où j'ai senti les premières émotions du cœur, hélas, je ne vous verrai plus. Ces clochers, e poi continua come Lucia. Manzoni in questa grande pagina ha saputo trasformare l'esilio intellettuale nell'espatrio dell'emigrante. Grazie. Grazie moltissimo. Dunque, nella ricchissima relazione di Marina Behr, questo esilio sembra assillarci, sembra essere presente da tutta la nostra cultura, sembra essere ovunque, sembra si scinde fra il mito dell'esilio, la letteratura dell'esilio e l'esilio stesso, e ha una sorta di costanza, ma nello stesso tempo, e credo che questo sia molto importante, ha delle rotture temporali, cioè ha dei mutamenti non solo nel modo di essere, ma nel modo di essere percepito. Questi mutamenti accompagnano quindi una sorta di filone, una sorta di autobiografia dell'Europa che attraverso questo esilio, cambiando il modo di intendere l'esilio e cambiando il modo di esiliarsi, si prospetta nella storia, nel tempo. E credo che queste rotture, oltre che la continuità, vadano approfondite. Una delle suggestioni, forse proprio più importanti di questi volumi, è il rapporto fra rotture storiche e continuità nel lungo periodo. Cioè, se c'è un tema che ha una continuità nel lungo periodo, e appunto ce l'ha dimostrato adesso Marina, questo dell'esilio, cui dall'antichità greca e romana, poi man mano attraverso la cultura cristiana, attraverso il mondo ebraico, eccetera, l'esilio è qualche cosa che ci forma, ci costruisce, è una delle parti di noi più forti e più continue. D'altra parte l'esilio cambia nella storia, e queste fratture sono in un rapporto molto preciso con la continuità e vanno analizzate in questo. Ora, io come storica non contemporaneista, anche se mi sono avvicinata solo sotto alcuni aspetti, però alla contemporaneità, non sono qui. Vorrei trattare solo alcuni punti di questi volumi. Non sono in grado, ma sono contenta che Mariuccia abbia posto proprio prima i problemi più legati al mestiere del contemporaneista, in particolare in rapporto col fascicolo di memoria e ricerca, abbia posto questi problemi che io mi volevo limitare mie parole a due o tre punti. Una è quella degli eretici italiani e del loro esilio, che in parole chiave il saggio di Tedeschi, ma che soprattutto a mio avviso assume una funzione molto importante, perché analizza l'esilio come un'opportunità che non è solo di chi si esilia, ma è soprattutto un'opportunità dell'Italia e dell'Europa tutta. L'altra è il saggio di Levi della Torre e in genere l'esperienza dell'esilio ebraica, che a mio avviso emerge proprio da questo contesto molto comparativo, proprio come qualche cosa che è assolutamente diverso da tutto il resto in tutta una serie di aspetti. E l'altro forse è questo confronto fra emigrazione e esilio, questa implosione dell'esilio nei tempi contemporanei e questa estensione del termine esilio, che a mio avviso però richiederebbe forse una soluzione anche nel rapporto con l'origine, non soltanto nell'essere visto nel punto di partenza, cioè l'Europa. Manca quello che invece abbiamo ritrovato sempre in tutte queste situazioni, che è il rapporto fra la partenza, il punto da dove parte l'esiliato, e l'arrivo, il punto dove arriva. Partiamo cronologicamente dall'esilio come opportunità, non come perdita. Questo è un altro dei temi che c'è in questi due importanti volumi, e Tedeschi lo tratta a proposito degli eretici italiani, cioè, e dimostra in questo bel saggio lui stesso ha sviluppato anche altrove e che comunque partono dallo studio di Cantimori sugli eretici italiani, dimostra questa diffusione non soltanto degli eretici, non soltanto quindi degli eretici a tutte le religioni, quali sono i sociniani, gli eretici che nel Cinquecento si diffondono per tutta Europa fino alla lontana Polonia, ma anche la funzione che questa disseminazione di persone, di eretici, ha in tutta Europa, in particolare in Svizzera, in Inghilterra, in Francia, ed è quello di portare i testi rinascimentali, di far conoscere il Rinascimento italiano all'Europa. Guicciardini, Machiavelli, Paolo Sarpi, tutti quei testi che hanno una funzione ereticale, che sono visti con difficoltà, che sono messi all'indice, che sono considerati eretici nell'Italia, che si chiude dopo il momento rinascimentale con la Controriforma e che attraverso gli eretici approdano, attraverso quella che è una qualcosa che, su cui forse non si è abbastanza riflettuto, che è proprio le traduzioni, il passaggio materiale dei testi arrivano in Europa. Ora, questo della diffusione del Rinascimento italiano è qualcosa che non è importante solo per la comprensione del Rinascimento in Europa, della cultura europea del 500-600, ma dobbiamo ricordarci, essendo di nuovo in tempo di 150esimo anniversario, pensiamo a quella che è l'interpretazione che gli uomini del Risorgimento si danno della cultura italiana, del suo posto nella cultura europea. È un'interpretazione che va dal Rinascimento al Risorgimento, dal Risorgimento culturale del 400-500 al Risorgimento politico dell'800, ed è un'interpretazione in cui la cultura europea, che è alle origini la cultura rinascimentale, passa in Europa attraverso un fiume carsico, ma questo fiume non è poi tanto carsico se qui si individuano passaggi, momenti, eccetera, e resta assente dall'Italia per lungo periodo, fino a poi a riemergere nel 700 con Vico e a diventare quella che è la cultura dell'Italia, del Risorgimento, della costruzione dello Stato italiano. È l'interpretazione spaventiana, è l'interpretazione fino ad arrivare a Gentile, è l'interpretazione che vede l'Italia come matrice della cultura europea e attraverso una circolarità la cultura europea torna all'Italia dopo questo passaggio e forma quella che è la cultura dell'Italia unita. È un'interpretazione che si connette fortemente al carattere di nazionalità e di non di nazionalismo. Guardo Francesca proprio perché ho visto le sue cose negli ultimi tempi su altro. Perché? Perché è una visione che in un momento di nascere di nazionalismi, pensiamo al mito fondativo della Francia che è Giovanna d'Arco o al mito ariano in Germania, è una visione che invece vede fortemente l'Italia come parte dell'Europa, l'Italia come parte culturale dell'Europa e questo rapporto fra Europa e Italia come un rapporto estremamente importante e fondativo. È una visione che ancora alla prima guerra mondiale, eccetera, una visione estremamente, cosmopolita e comunque fortemente europea in un momento in cui invece avviene il chiudersi nei nazionalismi. Mi sembra che questa interpretazione, che è fondata sull'esilio, cioè fondata sull'esilio di personaggi, ma anche sull'esilio di opere, sull'esilio di libri proibiti in Italia, che si diffondono, appaiono, vengono ripubblicati, opere, e questa visione sia una visione estremamente aperta a un sovranazionale e leghi l'esilio proprio al fatto di essere qualcosa di sovranazionale. Ebrei ed esilio. Il saggio di Levi della Torre ci mette di fronte, avrei forse voluto che ci mette di fronte a un caso anomalo, nel senso che poi se si parla di esilio si parla subito di diaspora nella nostra cultura e l'immagine che ci viene è subito quella dell'esilio degli ebrei. In realtà l'esilio degli ebrei, la diaspora, è a mio avviso, e questo emerge nel saggio ma emerge anche dalla storia, qualcosa di estremamente diverso dai casi di cui stiamo parlando. Perché è un caso di trasformazione proprio dell'esilio in diaspora, in una sorta di radicamento che però ha tutte le caratteristiche della diversità rispetto agli altri radicamenti degli esiliati, degli emigrati, nel senso che fino all'emancipazione ebraica, fine 700, inizio 800, non esiste nessuna possibilità di integrazione formale, non esiste la possibilità per l'ebreo di diventare cittadino del paese in cui vive. Quindi è qualche cosa questa questa ambivalenza di rapporto fra diaspora e Stato di Israele, che Stefano Levi sottolinea qui a proposito del mondo ebraico, è anche un'ambivalenza dentro l'esilio, che non è nemmeno un esilio, ma è una forma di radicamento estremamente ambiguo. E tant'è vero che poi il sionismo e la creazione dello Stato, che vengono dall'esilio, lo sottolinea Stefano Levi in una bella frase in cui dice che la patria del sionismo in realtà è proprio l'esilio, è proprio la diaspora, è la Russia sostanzialmente, molto più che l'Europa e molto più che è Pinsker e i rivoluzionari russi, che non hanno integrazione perché non hanno emancipazione, molto più di quanto non sia Herzl e i sionisti europei. Avrei voluto che spiegasse la differenza fra galut e diaspora, perché diaspora è parola greca che vuol dire dispersione, quindi si rifà a una sorta di dispersione che è senz'altro imposta al popolo ebraico, ma è anche scelta come tutti gli altri popoli, come i fenici, come tutti quei popoli del Mediterraneo, di creazione di colonie, come i greci, di una disseminazione nel Mediterraneo, e galut, che è invece un termine che ha un forte valore religioso, che è proprio l'esilio, la punizione, e quindi qui si collega alla punizione divina, ed è il termine che usano i religiosi ebrei per definire la diaspora, e che sottolinea la lontananza dalla patria, la lontananza dalla terra promessa, la lontananza nell'esilio, tutto negativo, mentre il termine diaspora ha una valenza molto più positiva. Mi sembra comunque che almeno fino all'emancipazione, quando le possibilità di integrazione ci sono, ma quando le cose cambiano di nuovo per il mondo ebraico, perché nasce il sionismo e nasce una possibilità di inventarsi una patria, almeno fino a quel momento questo rappresenti, esattamente come la presenza di piccole comunità dentro una società maggioritaria, rappresenti un'anomalia in quella che sono le concezioni e anche la realtà dell'esilio nella società europea di questi secoli. Sul risorgimento Marina ha parlato molto bene, volevo solo ricordare Mazzini, l'esule, cioè la figura... L'ho citato, l'ho ricordato, però sì, volevo solo insistere su questa caratterizzazione per cui il risorgimento è una grossa corrente del risorgimento, almeno è fondata proprio su una figura di esule che rappresenta in qualche modo l'esule per eccellenza, e questo per riportare l'esilio come matrice formativa del risorgimento, anche se secondo me tutta l'esperienza rinascimentale e controriformistica è un'altra forte apporto alla cultura risorgimentale che è fondata ancora sull'esilio. Il saggio di Maria Ferretti sull'esilio, mi dimentico sempre il nome, scusami Maria, su Boris Nikolaevski e le lettere della madre in parole chiave ci riportano a questa presenza nell'esilio della patria da cui si parte e dell'esilio, cioè anche se l'esilio è integrazione in una nuova società, anche se l'esilio è radicamento in questa nuova società, e i casi citati invece nel volume sull'Europa in esilio lo provano, perché moltissimi di questi esiliati poi su questo volevo ancora dire qualche parola che però non mi deriva dai miei studi ma dalle mie esperienze familiari, poi restano dentro la società di appartenenza e si radicano profondamente, si sentono tali, e poi bisognerebbe vedere anche forse in qualche modo il perché. Ecco, questo binomio fra patria e esilio nel saggio di Maria Ferretti emerge con molta forza, e questo mi ha spinta a domandarmi se nel nostro allargamento della parola esilio che per il Novecento si verifica, nel senso che c'è una grande confusione fra esilio, emigrazione, fuoriuscitismo, ci sono tutta una serie di termini in cui i confini sono molto labili, in cui ci sono degli aspetti che ci possono ricordare l'esilio, altri che invece non ce lo ricordano assolutamente. Se consideriamo l'esilio come una scelta volontaria, come fa Cicerone, una scelta volontaria fatta per evitare altri problemi e comunque in base a una scelta politica precisa, abbiamo già immediatamente togliamo dal termine esiliati tutte le displaced persons e le innumerevoli masse che il Novecento vede in movimento, non solo in Europa, pensiamo all'India, al Pakistan, queste suddivisioni di popolazioni, questi confini che si spostano, i polacchi, i tedeschi e poi gli esiti della guerra, le displaced persons. Allora, come usiamo questo termine esilio? Ecco, io credo che possiamo e forse dobbiamo, non lo so se questo è assolutamente necessario politicamente per avere una comprensione maggiore del termine, di quello che è il fenomeno dell'emigrazione. Comunque, se pensiamo che lo sia, forse però allora veramente dobbiamo tenere presenti i due momenti, il momento della partenza e il momento dell'arrivo, cioè dobbiamo legarci, se parliamo dell'emigrazione in Italia, dobbiamo anche legarci alle zone di partenza, dobbiamo legarci per una cosa culturale naturalmente, se vogliamo allargare i nostri, la nostra interpretazione del termine esilio, la semantica, dobbiamo fare lo sforzo di guardare da dove si viene, in quale contesto si viene, quali sono i punti di riferimento, perché da tutti questi saggi emerge sempre un'attenzione ai due poli, cioè l'esilio è il rapporto fra due poli, non è mai un polo solo, non è mai semplicemente l'arrivo, è sempre la partenza collegata all'arrivo. Ecco, questo è quello che qualunque discorso che interpreti la migrazione in termini di esilio finora lascia completamente fuori, vede solo gli arrivi, anche nel saggio di Gatta, ma non vede le partenze, i punti di partenza, quali sono le problematiche, qual è la cultura da cui si parte, perché anche questo forse è importante. Ecco, io qui non sono in grado ovviamente di fare un'analisi di questo tipo, sto solo buttando una richiesta di attenzione nel usare i termini e se si usano allora di avere un'attenzione a non usarli troppo semplificativi, lasciando perdere quello che invece da tutti questi studi mi sembra questo nesso indissolubile e estremamente complicato, ma proprio nella complicazione è il suo interesse fra punto di partenza e punto d'arrivo. Nel Novecento certamente c'è una moltiplicazione degli esiliati, c'è o degli emigranti o delle displaced persons o delle masse spostate da un punto all'altro che sono costrette in massa ad abbandonare i loro luoghi di provenienza e a stanziarsi in altri luoghi. E quindi a mio avviso è anche estremamente difficile definire i confini fra queste realtà che hanno certamente degli aspetti di diversità e anche se hanno degli aspetti di somiglianza. Sul fuoriuscitismo, io ho letto con grande interesse, non sono in grado, perché non è il mio mestiere, io sono una modernista che ogni tanto sulle cose ebraiche si allarga all'età contemporanea, di definire, di analizzare, per fortuna c'è Mariuccio, di analizzare bene questi saggi che pure meriterebbe. Ho apprezzato moltissimo l'approccio comparativo, nel senso che mi sembra un approccio che ci restituisce tutta una serie importanti di possibilità. E volevo semplicemente sottolineare l'attenzione, può puntare l'attenzione su un aspetto, nel non ritorno forse c'è anche una sorta di offesa originaria, io l'ho ritrovata in mio zio che era uno di questi che erano partiti dopo le leggi razziali, parlandone con Marina la ritrovavamo anche in suo padre. C'è una sorta di offesa originaria che non si placa. Mio zio non ha mai insegnato l'italiano alle sue quattro figlie quando è partito. C'era questo rifiuto della possibilità di ritorno, che invece è qualcosa che fosse perché era stato obbligato a partire da quello che era e non da quello che aveva fatto. Cioè non era un movente politico che lo aveva spinto, anche se c'erano, ma soprattutto era il fatto di essere ebreo, cioè una definizione razziale che forse cambia tutta una serie di cose, e l'offesa originaria è quella di essere visto solo in quello che sei e non in quello che hai fatto, in quello che rappresenti. E questa cosa mi sembra che circoli un po', ecco, introduce un altro elemento, quello del rifiuto di tornare in un posto in cui sei stato cacciato per quello che eri, come ebreo. La persecuzione razziale introduce, a mio avviso, un altro elemento di cui forse va tenuto presente, perché è molto generalizzato, credo, e sicuramente ha rappresentato per gli Stati Uniti un elemento di grande arricchimento culturale, e di impoverimento per l'Europa da cui si è partiti, che ha faticosamente ricostruito cose che molto spesso non è riuscita a ricostruire, ma è un'offesa che non si ritrova nel chi esce per quel che ha fatto, non si ritrova in Dante, non si ritrova in Foscolo, non si ritrova in Mazzini, è proprio una sorta di separazione netta che implica che il ritorno non è non soltanto possibile, ma non è voluto. Io qui mi fermerei. Anzi, io aggiungerei a proposito di quest'ultima cosa, che in molti casi l'emigrazione in Israele per alcune famiglie è stato una reazione immediata a questo rifiuto, nel senso che ci sono famiglie che sono tornate e poi immediatamente sono diventate sioniste, non erano mai state prima, e sono andate in Israele. Cioè questo rifiuto della patria di partenza nel momento in cui è un luogo che ha radicalmente cancellato l'identità, quella parte dell'identità che era la cittadinanza. Questo è un fatto, secondo me, che non può essere trascurato in queste storie. Ma sì, qui basterà ricordare la famosa frase di Mark Bloch: io mi definisco ebreo solo se qualcuno mi chiede se sono ebreo, insomma, no, quindi, cioè, e quindi si capisce questo, ma siccome poi in realtà nel fascicolo di Memoria e Ricerca c'è un bellissimo saggio di David Kretler sulle prime lettere dei refugees, che è esattamente questo problema, io inviterei a questo punto Camurri, se vuole appunto aggiungere qualche cosa. Esatto, sì, molto bene. Sì. Sì, se ti puoi mettere qua, Renato, ti va bene? Benissimo. Scusa, grazie. Grazie. Io ringrazio moltissimo di questa opportunità che si è determinata attraverso una chiacchierata con Agostino, in settembre mi pare eravamo, e quando venne fuori che da questa conversazione che c'era il fascicolo di parole chiave in preparazione, insomma. Ecco. E è una delle prime occasioni in cui parlo di questi temi in Italia, e questo è anche significativo del fatto che questo è un tema che è stato a lungo espunto, insomma, dalla storiografia italiana, la discussione, e quindi sono anche contento di farlo qui alla Fondazione Basso, ovviamente. Devo dire, come altra piccola premessa, che sinceramente da quando leggo cose riguardanti l'esilio, questo fascicolo che avete preparato è una delle cose migliori, nel senso che si vede che dietro c'è una regia, insomma, una riflessione profonda, e che spazia, insomma, sia su un arco cronologico amplissimo, ma anche da punti di vista molto diversi. Cioè, non ho trovato molte altre, insomma, contributi così, così ricchi. Il fascicolo Memoria e Ricerca invece è un fascicolo completamente diverso, come è stato già spiegato bene, che in parte riflette anche il mio percorso di ricerca. È un percorso che innanzitutto direi pienamente dentro ai cosiddetti Israel Studies che sono stati citati, quindi dal mio punto di vista le categorie analitiche sono quasi tutte, insomma, nate, hanno trovato i riscontri più importanti dentro questa tradizione di studi. E in più però ci sono alcuni elementi che secondo me sono determinanti nell'esperienza di ricerca. Il lavoro negli archivi, cioè io da anni lavoro negli archivi americani e quindi lavoro nelle carte degli esuli. E quindi questo dà una prospettiva, diciamo, completamente diversa a questo genere di studio. E poi, fortunatamente, anche l'incontro con alcuni degli ultimi esuli, insomma, che ho avuto modo di conoscere nelle mie esperienze americane. Prima è stato citato Franco Modigliani, ma anche Anna Iona Fo, ho avuto modo di conoscere, di incontrarla molte volte, e anche, insomma, altri esponenti della comunità degli esuli. Quindi anche queste sono state, diciamo, esperienze determinanti. Direi in particolare forse quella con Modigliani, il momento in cui io non avevo ancora chiaro cosa volevo studiare. Stata decisiva perché, insomma, lui rappresenta, insomma, proprio in maniera esemplare, diciamo, questa esperienza, insomma, il giovane ebreo della Roma fascista, il grande economista, passando attraverso, insomma, uno snodo decisivo dell'esperienza dell'esilio, come la New School for Social Research di New York, l'incontro con i grandi economisti, sociologi, insomma, della Weimar, e poi l'incontro con Salvemini, e, insomma, eccetera. Ecco, quindi io sono partito da questo tipo di, quindi ho trovato estremamente stimolanti e interessanti tutte le riflessioni teoriche di taglio filosofico, sociologico, antropologico che sono contenute nel fascicolo di parole chiave. Ecco, gli Esai Stalis hanno avuto in due battute una evoluzione di questo tipo, diciamo, che può essere focalizzata attorno a due paradigmi: il paradigma della cosiddetta assimilazione, quindi tutta una fioritura di studi a partire anche addirittura prima della fine della guerra, prima del 45, tutti tesi a dimostrare che l'ingresso nella cultura americana di questo patrimonio culturale proveniente dall'Europa era stato un elemento positivo per la cultura americana, quindi c'era, diciamo, questa forte orientamento a dimostrare questo tipo di ipotesi e di realtà. Il secondo è invece il paradigma successivo cronologicamente, anche che, insomma, che si può definire della acculturazione. Quindi dagli studi di Stuart Hughes, The Sea Change, ad altri grandi lavori, Bailey and Fleming, insomma, l'impatto della cultura europea sulla cultura americana. Secondo me, all'interno, non l'ho scritto qua, ma in altre parti, insomma, in altre sedi, entrambi questi paradigmi interpretativi sono oggi, insomma, superati o hanno dei forti limiti. I forti limiti perché non riescono a spiegare alcuni fenomeni legati all'esperienza dell'esilio, il suo carattere transnazionale che è fondamentale, l'aspetto della creatività che è insito nell'esperienza dell'esilio, creatività a tutto tondo, sono tutti nel campo artistico, ma insomma in senso lato veramente più ampio possibile, alle singole specificità dei casi nazionali che non vengono da questi due paradigmi che ho citato ben messi in evidenza. Oggi la storiografia, che è ben rappresentata, credo, in questo fascicolo che ho curato, si spinge molto più avanti rispetto a questi due paradigmi di partenza e ha introdotto, insomma, nella ricerca, in questo campo di studi, tutta una serie di elementi nuovi che vanno dagli elementi simbolici a quelli della creatività che ho appena citato, eccetera, insomma, no? Ecco. C'è da dire che in questa fase specifica degli studi sull'esilio, a mio avviso, ci sono anche dei pericoli molto forti che si stanno delineando nella storiografia, e anche questi vengono ripresi in alcuni dei contributi. Alludo specificatamente a quello di Kettler, ad esempio, e che possiamo così anche Faber, che studia l'esilio spagnolo verso il Messico, che possono essere poche battute sintetizzate in questi termini, cioè c'è un'eccessiva, diciamo, un uso troppo dilatato, ampio del termine esilio, e questo avviene soprattutto negli studi in campo letterario, ad esempio, no? Ecco, c'è di conseguenza una forte destoricizzazione, no? E mi riferisco prevalentemente al Novecento, ovviamente. Questo è un secondo. Il terzo limite, rischio, che è molto forte nella produzione soprattutto in lingua anglosassone, è quello, insomma, di presentare l'esperienza dell'esilio sostanzialmente come una esperienza, una sorta di favola hollywoodiana con inevitabile happy end, insomma, no? Ecco, e questo è un problema molto grosso, insomma, dal punto di vista interpretativo. Ora, rispetto a questi limiti, finalmente Kettler è uno storico che ha, un sociologo storico, insomma, che ha preso delle posizioni importanti rispetto a questi limiti, questi rischi anche, vi è appunto una produzione che tende a far ritornare l'essenza, insomma, del ragionamento sull'esilio ad alcune specificità storiche, insomma, molto forti. Ecco, quella del Novecento è collegata essenzialmente, come io ho cercato di sottolineare, a una precisa evoluzione, insomma, delle vicende europee, che prende inizio dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e che ha negli anni 30, ovviamente, il suo momento di suo tornante decisivo. Quindi questo è un primo elemento, insomma, la specificità dell'esilio novecentesco è legato all'impatto che i totalitarismi hanno sulle società europee e ovviamente di conseguenza è legato all'esperienza ebraica, insomma. Ecco, quindi da questo punto di vista è importante ribadire questi due elementi, insomma. Questi studi sono oggi comunque ancora dominati anche questo, su questo si ritorna spesso, e l'intento, insomma, di questo fascicolo era anche, andava in questa direzione, dal German speaking case, cioè il fatto che sull'area germanico-centrica c'è una produzione enorme, insomma, una cosa incredibile, non tutta di altissima qualità, ma che in continua evoluzione, cioè non ha sosta, insomma, no? Recentemente il caso francese comincia a essere ben studiato, sul caso italiano rimane sostanzialmente quello, insomma, il fanalino di coda, diciamo così, no? Allora, anche su questo mi sono interrogato all'inizio delle mie ricerche, perché di questa, ecco, questa poca attenzione. Ecco, e qui vorrei, visto che è stato, richiamare alcune questioni che sono state toccate, evocate, il perché di questo ritardo. Vabbè, ovviamente la prima spiegazione, come per la questione degli ebrei nel regime fascista bisognò attendere il 1988 per vedere, insomma, una svolta importante nella riflessione, l'avvio di una riflessione nuova, di una fase nuova, lo stesso si può dire per questa vicenda della storia italiana, cioè l'esilio di intellettuali e gli scienziati ebrei verso le Americhe. Questa è una prima, interpretazione. L'altra è un'interpretazione, spiegazione, scusate, rimanda al tema del fuoriuscitismo, ecco, che invece è uno dei due temi, accanto a quello del risorgimento, l'esilio del risorgimento, che ha avuto attenzione molto ampia nella nostra storiografia. Ecco, io ho subito cominciato, venendo da questo percorso di studi che ho sinteticamente ricostruito, mi sono posto rispetto al problema del fuoriuscitismo con un'ottica completamente diversa. Per me è stato quasi inevitabile considerare l'esperienza del fuoriuscitismo qualcosa di assolutamente diverso dall'esperienza dell'esilio, per alcuni requisiti basici, insomma, che non appartengono all'esperienza tipica dell'esilio, cioè il distacco dalle proprie radici, l'abbandono e l'arrivo in una nuova realtà con tutto quello che appunto richiede, no? Questo passaggio richiede, perché insomma nella comunità parigina del fuoriuscitismo è impossibile trovare quelle condizioni che caratterizzano l'esperienza dell'esule insomma novecentesco, insomma, che compie questo tipo di tragitto che ho adesso sottolineato, né dal punto di vista del linguistico né dal punto di vista dell'inserimento in una nuova società, eccetera. E da ultimo, insomma, se volessimo solo prendere quello come elemento di confronto, il problema del ritorno. Il problema del ritorno: la stragrande maggioranza dei fuoriusciti rientrano in Italia dopo il 43 o in fasi successive, insomma. Quindi questa, diciamo, è una esperienza, un capitolo importante che però non ha, a mio modesto parere, non ha molto a che fare con l'esperienza dell'esilio. Insomma, i termini di ragionamento, di confronto con l'esperienza dell'esilio sono quelli che derivano da questa filone degli Esile Studies, che metodologicamente inquadrano naturalmente il problema della partenza, è stato evocato prima, il perché si parte e come si parte, questo è il problema, e come si sceglie una destinazione, il problema dell'arrivo, il problema dell'inserimento, tutto quello che ne riguarda. Allora anche qui la comparazione tra i casi nazionali è estremamente chiara, no? E il problema poi dell'impatto delle culture nazionali nella cultura, nel paese di accoglienza, e ovviamente il problema anche del ritorno. Ecco, sul problema del ritorno direi che forse è uno dei temi ancora poco studiati. Questo saggio di Kettler propone un punto di vista estremamente interessante. Lui però ha la fortuna di lavorare sugli archivi dei rifugi tedeschi, che sono straripanti di materiali di lettere, insomma gli archivi americani intendo, e quindi questo tipo di approccio risulta, diciamo così, più facile. Per noi è un po' più difficile, insomma, ecco, un limite metodologicamente parlando che si riscontra per quanto riguarda il caso italiano è che noi, anche questo è un riscontro abbastanza banale, abbiamo poche, a differenza del caso tedesco, poche memorie, poche autobiografie dell'esperienza dell'esilio, insomma, no? Soprattutto mi riferisco a quelli che prendono la strada delle Americhe, insomma, Modigliani, Segre, Luria e pochissimi altri, insomma, no? Anna Iona scrive assieme al marito quel bel, insomma, libro, Noi due, però insomma si contano sulle dita di una mano, insomma, cioè se noi prendiamo la letteratura tedesca da questo punto di vista è una cosa spaventosa, insomma, no? Dal punto di vista della ricchezza, della profondità, della rielaborazione che la cultura tedesca ha fatto di queste esperienze. Da noi non abbiamo questo genere di supporto, insomma. E sul discorso quindi la comparazione è sicuramente un approccio fondamentale, quindi io cerco di comparare il caso, di affrontare, studiare il caso italiano in un'ottica comparativa con quello tedesco e con quello francese soprattutto. E già questo offre una serie di spunti interessantissimi, insomma, relativamente ai passaggi chiave dell'esperienza dell'esilio. I tedeschi hanno a loro disposizione tutta una serie di organizzazioni di sostegno che facilitano la fuga dall'Europa, cosa che gli italiani non hanno, in parte neanche i francesi. L'esilio dei francesi viene dopo il 1940, ovviamente. Le organizzazioni ebraiche italiane non hanno questa capacità di supportare, salvo pochi casi, insomma, la fuga degli ebrei verso le Americhe. Il supporto che viene dato alle grandi fondazioni nei paesi di accoglienza, in America del Nord, è enormemente sproporzionato rispetto a Germania, Francia e Italia. Ma lo stesso problema importantissimo che riguarda l'identità nazionale, come attraverso questa esperienza si ridefinisce l'identità nazionale, anche qui, da questo punto di vista, guardando i tre casi sono di base, ovviamente, si possono capire tantissime cose riguardo l'inserimento in campo culturale, l'impatto riguardo alla la produzione culturale dei rifugi, degli esuli, riguardo anche al loro rapporto, la ridefinizione della loro nazionalità. Cioè come i tedeschi mantengono, che tipo di legame l'esule tedesco mantiene con la madre patria, che tipo di legame invece mantiene il francese e mantiene l'italiano, no? E qui si possono, insomma, ipotizzare tutta una serie di interpretazioni. Io uso tre tipologie, insomma, quella del patriota, quello che mantiene un legame molto forte con la sua patria di provenienza e che in larghissima parte poi rientra nel paese di provenienza, il cosmopolita che invece mantiene una doppia identità, diciamo così, adesso sintetizzo in queste tre figure per toccare così fugacemente questo problema, e l'immigrato che invece ha un'assimilazione, diciamo così, totale nella società che lo accoglie, insomma. Da ultimo, il problema del ritorno è un problema importante, l'ho tratto un secondo riferendomi solo al caso italiano, dall'esperienza diretta, diciamo così, fatta sulle carte. C'è sicuramente l'elemento che veniva richiamato prima dell'offesa, insomma, no? Questo è fortissimo, è chiaro, insomma. Ma c'è anche l'elemento della proiezione sul futuro. È vero che l'esule vive sempre tra un tempo che è sospeso tra passato e futuro. L'esperienza degli esuli italiani negli Stati Uniti è un'esperienza soprattutto che inizia negli anni 40, quando vi è anche una qualche forma di organizzazione in campo politico, con la Mazzini Society, anche con altre esperienze, e chiaramente è proiettata nel pensare una nuova Italia, soprattutto dopo il 43, ma addirittura anche prima, una nuova Italia dal punto di vista istituzionale, politico, culturale, eccetera, eccetera. E direi che oltre all'espiegazione dell'offesa, quello che gioca un ruolo fondamentale questi uomini e queste donne è ovviamente capire cosa avviene dopo il 1945, insomma, cioè molti sono frenati dalla rapida, diciamo, evaporazione dello spirito resistenziale che vedono attraverso contatti diretti, scambi epistolari, quindi, cioè, non teorica ma molto pratica. E Modigliani scrive le sue memorie, l'autobiografia, e poi noi quando abbiamo visto il successo dell'uomo qualunque nel 1946 abbiamo deciso che saremmo rimasti in America per sempre, insomma, no? E questo è molto comune. Lo stesso Salvemini, che se ne dica, insomma, è fino all'ultimo divorato interiormente dalla decisione se tornare o non tornare, se restare e morire lì o tornare in Italia. E probabilmente è solo Calamandrei che lo convince, insomma, tornare, forse anche le condizioni fisiche che si stavano aggravando. Però, ecco, questo è un problema estremamente interessante e molto difficile da studiare, secondo me, quello del ritorno, che però diciamo è inevitabile e bisogna assolutamente affrontare, insomma. Scusatemi, ho fatto semplicemente una piccola così. Grazie mille. No, grazie per il contributo. Sì, questo tema del ritorno, faccio solo una chiosa. C'è anche il ritorno di coloro che, come nel caso sempre della Germania, ritornano proprio, come dire, per contribuire alla modificazione della cultura politica, diciamo, dato l'investimento americano, sul caso Germania ovviamente, un investimento che è un investimento sulla democrazia americana, sul passaggio del passaggio della Germania sul fronte occidentale, vi è un contributo degli esuli alla definizione delle nuove scienze politiche che devono contribuire a questo passaggio. Insomma, il totalitarismo nasce in questo clima, e la categoria di totalitarismo nasce come strumento, diciamo, era già nata prima come categoria, ma si definisce come strumento della nuova scienza politica. Vi è un passaggio dalla vecchia sociologia classista degli anni 20 a una sociologia politica della seconda metà degli anni 40 che vede il contributo appunto di Frankl o di Franz Neumann alla costruzione della Freie Universität, insomma. E quindi c'è anche da mettere in conto questo discorso del ritorno, insomma, ecco, in che modo diventano parte integrante di una rinascita della Germania diciamo, alla cui sconfitta loro avevano contribuito. Insomma, noi abbiamo invece una, cioè, molti dei nostri fuoriusciti rientrano per combattere per l'Italia, insomma, quindi è un po', diciamo, per dentro la guerra, insomma, è veramente un caso diverso. Ma io credo di, da questo proposito, penso anche di fuoriusciti che il nostro regista del Parole Chiave Esilio, Claudio Pavone, possa venire a dirci qualche cosa. Scusa, sì, grazie Renato, grazie mille. Grazie. Dunque, scusate, io innanzitutto devo ringraziare non solo a nome mio, ma a nome di tutta la redazione di Parole Chiave, che è davvero una redazione collegiale, di cui fanno parte non solo Mariuccia, che si è già espressa, diciamo, come nella seconda veste di relatrice, e anche Carla Pasquinelli qui presente, e c'era Stefano, non vedo Petrucciani, ciao, scusa, non ci avessi arrivato Esther qua dietro, e Stefano Petrucciani. Quindi le discussioni sono sempre vere, le discussioni comportano l'esposizione di vari punti di vista, ecco, anche se poi dobbiamo dire, proprio come redattori, non è sempre facile condurre ad un quadro unitario i vari contributi che derivano poi da vari punti di vista che compaiono nella redazione, e quindi uno può aver dimenticato alcune cose, alcune dimenticanze gravi mi sono suggerite proprio dalle vostre relazioni. Ma insomma, questa è una premessa, non solo di maniera. Ecco, invece vorrei così ricordare un punto e poi fare un azzardo. Il punto è questo, che sono pienamente d'accordo, che l'avete sottolineato molto, che partendo dall'articolo di John Tedeschi si vede come l'esilio ha anche una funzione positiva, ecco, in varie direzioni, negli ospitanti e negli ospitanti, o nel paese di origine degli ospitanti. Quindi questo è stato detto con molta chiarezza. E ecco, io vorrei aggiungere proprio a sostegno di questa considerazione che voi avete fatto, che si può ripetere il discorso per il Risorgimento e per l'antifascismo, come risulta dai due articoli per il Risorgimento di Agostino Vissarelli e per l'antifascismo, soprattutto in Francia. Ecco, quindi l'America, ad esempio, è una lacuna nel nostro numero, per fortuna ce n'è stata, c'è, cioè, chi ha pensato a colmarla, da Antonio Becchelloni. Ecco, perché in effetti in entrambi questi casi nell'esilio si coniano alcune proprio delle categorie di interpretazione politica, una specie di premessa in esilio di una coinè risorgimentale. Ecco, e così anche per quanto riguarda l'antifascismo, ripeto, soprattutto per la Francia, ma certo bisognerebbe aggiungere Salvemini in America, Max Ascoli, insomma, c'è tanta gente. Ecco, quindi volevo così sottolineare in supporto questo. E infine l'azzardo è questo, trattandosi di una letterata, volevo tornare un momento su Dante. Ecco. Ora mi sembra che Dante, che noi lì un po' snobbiamo forse, abbiamo detto sì, si sa che Dante è un simbolo, ma poi non l'abbiamo preso direttamente in considerazione. Però mi sembra che in Dante vi siano tutte e tre le sfaccettature della personalità dell'esiliato, su cui avete tutte sottolineato il senso e l'importanza. Cioè, nella citazione del passo di Cacciaguida c'è proprio lo sdegno e la rabbia, insomma, delle sofferenze che l'esiliato così soffre, ecco. Io vorrei permettermi, quindi azzardo, appunto, a fare altre due citazioni, una di quando Dante dice, e correggimi se sbaglio, se mai continga che il poema sacro al quale ha un posto mano è cielo e terra, e che mi ha fatto per più anni macro, vinca la crudeltà che fuor mi serra del bello vile, o io crescea, pascea, fanciullo. Ecco, qui c'è una nostalgia della patria, diciamo, nel senso che allora si poteva dare la parola, una nostalgia del luogo di partenza dal quale poi sappiamo che Dante è rimasto sempre strano. E infine però anche la terza sfaccettatura che dicevo è che, adesso non ricordo a quale personaggio Dante la riferisca, però dice: indi partissi povero e vetusto, e se il mondo sapesse il cor che gli ebbe, mendicando sua vita frusto a frusto, molto lo loda e più lo loderebbe. Ecco, è ovvio che insomma, Dante pensa anche a se stesso. E qui c'è come una conquista di dignità da parte dell'esule. Quell'esule soffre, come dice Cacciaguida, è nostalgico, come dice semmai Continga, eccetera, eccetera. E però anche sa conquistarsi, Dante sente di essere all'altezza di chi si è conquistato, insomma. E quindi povero, vetusto, quindi mendico, però si merita anche le lodi. Ecco, non so se non è un eccesso, c'è anche nella canzone, no? L'onore, sì, sì, sì. L'esilio, perché sì, l'esilio quella, le tre donne. Di espressione di una personalità che di laico, perché c'è questo elemento importante, no? Cioè l'esule è il modello del laico, e Dante è il laico in particolare, ma per esempio poi questa dimensione dell'esilio che è nato appunto con la cacciata dei bianchi, per esempio, si perpetua per rovescio in Petrarca, che era figlio di uno di questi esuli, e che per diciamo reazione non è laico, ma diventa cosmopolita, ma nello stesso tempo però crea un altro modello ancora, che è appunto il modello del cosmopolita. Cioè da questa dimensione dell'esilio, adesso noi italiani poi eravamo più avanti allora, come ricordava Anna, poi abbiamo continuato ad esserlo, insomma, probabilmente abbiamo prodotto veramente un quantitativo di esuli eccelsi piuttosto intenso, però ecco, Petrarca per esempio crea il cosmopolita. Petrarca è uno che va in giro scrivendo discorsi per il re di Francia, per i Visconti, in latino naturalmente, non in italiano. Però ecco, voglio dire, questa dimensione positiva della capacità di fuoriuscire dalla piccola patria e poi diventare un intellettuale a tutto tondo è già in Dante, poi viene proseguita, ed è uno degli aspetti di positività e anche di mito, di mitologia, di ideologia, come si diceva una volta, perché insomma di questo poi si tratta, della figura dell'esule. È quella stessa che viene poi nel Risorgimento tanto idealizzata nel culto di Dante. Sì, perché è appunto in fondo detta proprio dall'Italia, ha una funzione di sprovincializzazione. Questo vale sia per gli esuli del Risorgimento, sia per gli esuli antifascisti, ecco, sia quelli francesi, di cui si occupa soprattutto Beccaloni, ma sia di quelli americani, di cui diciamo, si è parlato per altro verso questa sera. Ecco, grazie. Posso fare un azzardo ancora più grosso, diciamo, rispetto... allacciandomi come sempre all'iniziativa del nostro direttore, questa, scusate, è un fatto personale, ma questa citazione di Partisse povero vetusto era una citazione che ripeteva spesso mio padre, meridionale, emigrato dal sud al nord. Allora, secondo me questo allargamento anche del concetto di esilio, anche nelle emigrazioni che sono state violente nel nostro paese, violente nel senso come sradicamento culturale, e questa diciamo funzione di acculturazione appunto che poi svolge appunto questa trasmigrazione, secondo me è importante e interessante. Abbiamo sottolineato nei nostri numeri passati per esempio un discorso che vorremmo fare sulla provincia e il ruolo che la provincia svolge nel nostro paese, che non è provinciale, che non è localistico e che spesso invece ha una funzione innovativa sul piano culturale, come vediamo oggi dalla letteratura, no? Cioè è la letteratura che ci dice di più sul nostro paese che non le scienze sociali o la storia. Ma qui mi sto allargando ed era un azzardo e volevo chiedere se qualcun altro voleva intervenire. Carla, scusa, potresti venire qui e così diciamo chi sei, si registra, scusa, per esempio, scusa. Sono presa il numero perché me lo sono dimenticato nel frattempo. No, volevo solo dire questa osservazione sul ritorno, sulla partenza, scusami, tu hai detto prima che manca il luogo della partenza, no? Se l'esilio è tutto giocato sul ritorno. C'è un solo autore che se ne è occupato dei Migration Studies, che è Sayad, che ha scritto un libro molto bello, La doppia assenza. E purtroppo è anche morto Sayad, giovane, ma insomma comunque era un algerino tunisino, mi pare tunisino, non sarei sicura. È uno dei pochi che tiene conto del... Poi volevo fare un'altra osservazione sempre su questa giusta sul ritorno, sulla diaspora. Questa è una cosa che io ho messo di tangenziale nel mio intervento, e nel senso che c'è un libro, citando un libro molto bello che si chiama che è di aiuto che si chiama arrivo Zerubbabel. Ritmi nascosti, che appunto ha raccontato questa cosa molto interessante: come mai, come hanno potuto gli ebrei per 2000 anni mantenere un'appartenenza nazionale, se vogliamo chiamarla così, cos'è che li ha tenuti insieme, qual è stato il collante in assenza appunto di uno spazio, di un territorio, di una patria. E lui ha fatto appunto, ha mostrato come quello che ha tenuto insieme gli ebrei è stato non lo spazio ma il tempo, nella forma della celebrazione del Sabbat. E perché questo ha assicurato un cemento identitario comunitario nel momento in cui si manteneva simbolicamente una percezione che dappertutto in quel stesso giorno veniva celebrato quel rito che li ha tenuti insieme. Tant'è che dopo che è nato lo Stato di Israele, il Sabbat pare che sia molto meno rispettato, sentito. Questo è sempre Zerubbabel, io mi tiro indietro. Questo avrei detto anch'io. Dunque, in Israele, ascolta, prendi tutti prendere un taxi in Israele nel sabato. Giuliano Crifà, io ho segnato tante cose, ho ascoltato cose molto interessanti che permettono anche a me di ripensare il tema dell'esilio, perché questo è un tema al quale io ho dedicato la mia tesi di laurea 50 anni e più fa. E quindi era un momento in cui dell'esilio si parlava anche in Italia, ma si parlava in un certo modo. Comunque, non di questo voglio parlare, non delle cose su cui potrei dire qualche cosa, ma del fatto che io faccio sono un giurista e quindi ho parlato anche in parole chiave, per colpa di Esther Fano, credo, di questi profili che sono i profili del diritto. E non ne parlo dal punto di vista del giurista positivo, non ne parlo dal punto di vista, non so, della Costituzione italiana, o magari anche di quella di Sarkozy, se sarà una nuova Costituzione, o della Costituzione americana, non da questi punti di vista, ma ne parlo dal punto di vista della base di tutti i discorsi che si possono fare dal giurista sull'esilio. E il primo discorso è quello della parola, del significato della parola. Di questo si è molto parlato, è una parola ambigua, certamente, e l'ambiguità viene superata poi dai fatti storici concreti, dal contesto storico preciso. Bene, per il giurista che costruisce non sulla tragedia greca, non sulla Divina Commedia, casomai è il contrario, è la Divina Commedia che è costruita forse su San Tommaso, che però costruisce sul diritto, per il giurista la base anche di questi discorsi è purtroppo il diritto romano, e in particolare il digesto, ma forse anche il codice, l'intervento dello Stato per quanto riguarda il fenomeno che poi noi chiamiamo magari esilio e che riguarda l'esule e come si diventi esuli. Voglio dire soltanto questo. Noi abbiamo un'espressione che si chiama diritto di esilio. Cioè abbiamo nelle fonti lo ius exili. Cosa è questo diritto di esilio? La disciplina sul fenomeno dell'esilio e quindi sulla esclusione, la espulsione, la pena. O è invece il diritto di andarsene fuori se uno non si trova bene dove si trova? E qui anche dal punto di vista proprio delle fonti, perché faccio lo storico e mi baso sulle fonti in certa misura, ci sono due momenti. E questo è il contesto politico allora che determina anche il significato. Fino alla fine della Repubblica l'esilio è considerato come ius exilio, come diritto di esilio, un diritto del cittadino. Ed è soltanto il cittadino che può avere questo diritto. Lo Stato, chiamiamolo così, forse non si può dire Stato, non può negare al cittadino di fuggire. Fuggire da che cosa? Fuggire dalla pena di morte. Quindi è un diritto di non essere messo a morte. Soltanto il cittadino romano. Finisce la Repubblica, cambia il sistema, cambia tutto. E nello spazio di forse 2-3 anni, le fonti, cambiano completamente le cose. E lo ius exili è la disciplina di una delle pene che possono essere inflitte al cittadino se c'è un certo delitto o non c'è un certo delitto. Bene, tutta la prima parte è scomparsa nel digesto. Tutta la prima parte è ignorata dall'intervento successivo sull'istituto dell'esilio. Quando si parla del bando, il bando non è la stessa cosa dell'esilio romano. Il bando è un fenomeno medievale che nasce in un contesto diverso, che è quello del feudo, eccetera, eccetera. È un'altra cosa. Però la base, diciamo anche teorica, dell'istituto dell'esilio è quella dell'esilio come pena, che viene attribuita a qualcuno che è un criminale, criminale che viene giudicato per tale da un sistema processuale di un certo tipo. Il resto, tutto quello di cui avete parlato voi così bene, è bellissimo, ma è un aspetto dell'esilio che ha a che fare con quella che voi sapete è la letteratura consolatoria soprattutto. È un luogo comune, è una serie di luoghi comuni. Naturalmente luoghi comuni che hanno una forza loro anche sul piano pratico. E poi una piccola esperienza su un altro punto che è stato detto. Io ho discusso un mio libro proprio sull'esilio con uno dei grandi maestri, Ernst Levi, che naturalmente è emigrato e ha scritto delle cose bellissime senza sapere l'inglese bene, e dopo è tornato, ma non ha mai voluto rientrare in Germania, mai, e si è domiciliato a Basilea, cioè a 20 chilometri da Friburgo e quindi dai suoi allievi anche. E Levi ha scritto delle lettere straordinarie al suo ex discepolo che era Kunkel. Questo è un esempio di un rapporto tra un esiliato interno, questo era Kunkel, e un esiliato esterno, questo era Levi, che rappresenta quella grande cultura che forse è stata importata in America, forse rientrata in Europa, tutte cose sono straordinarie, però direi che quando si parla di un fenomeno che va studiato sociologicamente, dal punto di vista del rapporto con la religione, naturalmente, tutte queste cose che sono state dette e tante altre ancora, non dovrebbe mai ignorare che c'è anche l'aspetto giuridico. Quella distanza enorme che c'è sempre stata tra lo storico puro e lo storico del diritto. Momigliano ha cercato di dimostrare che non esiste, la differenza tra la storia generale e la storia speciale, ha detto che era finita questa differenza. Non è vero. Un secolo prima Mons aveva detto che per tutta la vita aveva cercato di superare le barriere che ci sono tra gli storici e i giuristi. Non è vero, ma almeno qui si può cercare di farlo. Io mi auguro che venga fatto. Grazie veramente. Questo è bellissimo. Grazie mille. Beh, a proposito di questi dialoghi a distanza, un'altra figura chiave è Jaspers, che appunto se ne va in Svizzera e lì rimane e non se ne vuole tornare in Germania, insomma, neanche dopo la guerra. Qualcun altro che vuole intervenire dopo Grifò? Beh, c'avevo cioè proprio... Posso dire una cosa solo io, grazie, per risposta a Grifò? Cioè, sì, è una letteratura consolatoria, d'accordo, però ci sono gli esiliati, non c'è solo la letteratura. Cioè, c'è Foscolo, c'è Mazzini, cioè ci sono delle figure che danno, sono concrete e anche il diritto è un'astrazione, come il... Non è solo la percezione però che ne ha Mazzini, è quello che l'esilio, il fatto che tanti dei suoi intellettuali, dei creatori della sua storia siano stati degli esiliati, ha nella cultura europea. Anche il diritto è in qualche modo, ha un decalage, ha una differenza con la realtà storica, non soltanto la letteratura, ma anche il diritto in qualche modo. Ha un rapporto che non è di completa, come si dice, questo volevo solo dire, salvando un valore, come dire, positivo a questa nostra cultura dell'esilio, che non, a me sembra che non sia soltanto consolatoria, proprio per la funzione storica che ha avuto l'esilio al di là di quello che si può dire che fosse pena o opportunità, se vogliamo. Ecco. Una cosa, sì, è vero che la letteratura consolatoria in senso tecnico scaturisce come dimensione retorica marginale fiorita a lato del diritto. Molto spesso quelli che hanno scritto letteratura consolatoria erano essi stessi giuristi. In misura maggiore o minore erano comunque di formazione giuridica, Boezio stesso lo era, Dante stesso aveva la sua dimensione giuridica e la poesia nel Medioevo era fatta tutta da notai, quindi questo... però lasciamo che questa dimensione occidentale cresciuta a fianco del diritto e diventata così importante nella creazione della cultura abbia una sua dignità accanto a quella immensa che il diritto e la sua storia hanno. Posso anche ricordare che questa dimensione della cultura poi ha prodotto diritto, per esempio il diritto internazionale. Quando facciamo appunto, quando discutiamo su come si costruisce la categoria di persona, a proposito appunto dell'Olocausto e della Shoah, proprio a partire dalla nascita del concetto di crimini sulla persona, di crimini contro la persona, beh, da lì poi nasce appunto tutta una costola del diritto internazionale che porta alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo con poi le sue applicazioni successive. Quindi c'è anche, come dire, un andare e venire, ecco, spero, mi auguro, perché altrimenti non avrebbe molto, cioè in fondo noi ci appassioniamo a questo perché questo poi si deve tradurre anche in norme di legge che noi vogliamo, anche rispetto all'oggi, no? Cioè, voglio dire, non a caso questo numero finisce sul tema dei rifugiati e anche qui naturalmente perché? Perché si vuole un'estensione giuridica e appunto un'efficacia giuridica nei confronti per la protezione dei rifugiati che sia anche appunto come dire, codificata, ecco, e questo è frutto di una pressione dell'opinione pubblica. A un certo punto è questo un po', scusa, che volevo dire.